Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Pasto biscum donna. Apetito du. Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol. Tu pincho vedi dalle 17 9 di Radio Onda Rossa. E sono una bugiarda perché non c'è una volta che inizio alle 17, ma insomma lo sapete, questa è una radio con una scarpa e una ciabatta, ma ci piace così. Oggi abbiamo degli ospiti da paura, è radio contro radio, anzi radio con radio, altro che contro invece. Io so che da qui nasceranno grandi cose. Tutti i giorni, e andiamo ben oltre la cumbia, state tranquilli, che qui insomma si parla di radio a 360 gradi. E allora, iniziando questa puntata, prima di introdurre così le nostre ospiti, i nostri ospiti, c'è un saluto che io voglio fare veramente dal profondo del mio cuore, perché i tanti anni passati in questa radio mi hanno fatto attraversare, conoscere un sacco di gente che poi lascia il segno quando se ne va, lascia il segno anche per voi, pure se non l'avete conosciuto. Io sto parlando di Vito, lo storico tipografo di Radio Onda Rossa. Dico che lo conoscete pure voi perché conosco l'affetto che avete per questa radio e soprattutto per la nostra agenda e per i tanti manifesti che abbiamo fatto per le iniziative. Lui non era solo il nostro tipografo, era un compagno di questa radio, era un sostenitore ed era un paziente lavoratore, visto che con una radio con i buffi come questa portava pazienza per anni e anni prima di essere così retribuito per il lavoro che faceva per questa radio. È come se per noi si chiudesse un po' una fase, perché avere Vito qui dietro, sapere che aveva tanta pazienza, poter ricorrere a lui a qualsiasi ora del giorno o della notte, per noi era una certezza. Chi dà una mano a questa radio come fonico, come gruppo, come speaker, come amico, compagno, lo sa che con questa radio ci vuole sempre un pochino di pazienza, e lui ne aveva veramente avuta tanta. E allora io vorrei che insomma per un attimo tutti e tutte sfogliasse quell'agenda e vedesse il sorriso di Vito col suo, veramente col suo sprint, sempre ti accoglieva col rumore delle macchine, della tipografia, ma insomma in questa radio ha lasciato un segno veramente non piccolo, Onda Rossa. Ok, allora siamo riusciti pure a far fine una sigla che dura tipo 10 minuti, che è notevole, però c'è un'altra cosa che volevo farvi sentire. Sono Nati Yu e voglio mandare un gran abbraccio a mia hermana e mio hermano di Radio Onda Rossa. Sì, insomma, andati giù nel caos di quella grandissima serata, di cui voglio veramente ringraziare prima di tutte chiaramente Annati Giù, la sua band pazzesca di musici che hanno veramente spaccato. È stato uno spettacolo veramente grande, che vi siete persi in tanti e in tante. Io forse mi aspettavo un po' più di gente, e lo sapete, io sono sempre la lingua biforcuta, non riesco a stare zitta, l'unica ceretta che mi faccio è quella sulla lingua. Mi sarei aspettata un po' più di maschietti, lo posso dire? Perché secondo me, non a caso, lei ha aperto questo concerto con Antipatriarca, e la prossima puntata, così, sono riuscita a fargli due domande al volo sequestrandola dopo il concerto, e gli ho chiesto proprio perché ha avuto bisogno, ha sentito il bisogno di aprire il concerto con questa canzone. Beh, lei fa una sinteticissima analisi. del patriarcato nella sinistra. Ci sono tante cose di cui ancora ci dobbiamo liberare e credo che questa sia una. E allora chissà, imparare invece ad accettare la competizione anche con una donna mitica come lei, che ci mette la musica, il suo essere MC, ma ci mette anche tanta analisi, tanta testa, tanto cervello, probabilmente il portato della sua esistenza, secondo me avrebbe fatto bene anche a tanti maschietti che non ci sono venuti. L'importante è che ci siamo divertiti, grazie va chiaramente anche all'Oa Acrobax che mi ha chiamato a fare un DJ set sul palco, volevo morire. Io faccio radio perché non mi si vede, mi sento protetta e invece poi ti sbattono lì. Invece è stata veramente una grandissima serata che è stata poi mandata anche in streaming in diretta, e qui entriamo, facciamo entrare in voce gli ospiti da una mitica radio web che si chiama Radio Caos. Allora abbiamo qui tre rappresentanti, io gli do il benvenuto, ringrazio per essere qui, ma è stata un po' una folgorazione incontrarci, no? Assolutamente, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di La Eschina del Sol. Qui avete Amparo De Vizzi, Mica DJ e Il Cannizza Auta Radio Caos Italy. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto io comincio subito con le domande proprio dall'alba dei tempi. Perché avete voluto fare una radio? Come vi è venuto questo prurito alle mani? Perché la radio? Allora, guarda, questa è una domanda in cui probabilmente ognuno di noi potrebbe rispondere in maniera differente. Tutti noi facciamo parte di questo progetto, che è una radio nata nel 2009, attiva quindi da un pochino di tempo. Certo, qui ci sentiamo come dei bimbi sperduti, però no, diciamo, abbiamo un po' di esperienzietta anche noi, e ognuno di noi è entrato in fasi diverse. Per quanto mi riguarda, io ho una formazione antropologica, sono laureata in antropologia. Ho lavorato per tanto tempo nell'organizzazione di eventi, nel Rising Love, che mi piace citare perché è un grande luogo di ritrovo e di produzione culturale che non esiste più a Roma, e ci siamo ritrovati tutti all'interno di questo progetto. Per me è poter esprimere qualcosa che forse in altri canali è molto difficile, quindi è la cultura latinoamericana musicale, quella che non va di moda. Poi apriamo una parentesi su questo, perché sì, poi la radio, diciamo, appunto, la radio web, immagino, perché ormai è un terreno minato quello dell'FM, noi lo sappiamo bene quanto ci costa sgomitare per non essere coperti, e ringraziamo sempre i geni che negli anni 70, i compagni che hanno avuto veramente la lungimiranza di poter avere una radio FM. Però credo appunto che il mezzo radio, web o FM che sia, poi è un mezzo che ti lascia libero di tutti gli altri, quindi credo che sia un po' la sua forza, no? Esattamente, come dicevamo prima, no? Lo dicevi tu stessa, che il non ti rende l'ascoltatore passivo, che invece ti produce una televisione. Esatto, sì, credo che questo sia importante, che nonostante ti entri da una parte, ti lascia libertà di uscire te stesso dall'altra. E poi sì, guarda, poi sul web te lo devi andare davvero a cercare. Esatto. Non è come la radio, che magari stai facendo zapping e ascolti qualcosa che ti piace, una canzone, e rimani sintonizzata, ma anche se non sei un ascoltatore di quella frequenza lì. Invece col web te lo devi davvero andare a cercare, quindi il pubblico magari è più, insomma, cerca. E quindi vogliamo ripetere l'indirizzo di questa, certo, radio è radiocaositaly.com, caos con la K. Ci trovate anche su Facebook, sempre super attivi. E dai. Soprattutto, ho visto, appunto, cominciamo a parlare di trasmissioni. Yes. Allora, tu fai una trasmissione di musica latinoamericana, quella, diciamo, non commerciale, non comune, perché a parte, appunto, io lo dico spesso qua, quando sentono dire la musica latina te guardano come se fossi quella che fa DJ reggaeton. E il reggaeton, ma che è quella musica coatta? Allora, a parte che gli italiani non ballano, insieme devono toccare qualcun altro per ballare, vi farebbe tanto bene darvi una toccatina, abbracciatina. Gli manca proprio invece questo modo molto normale del ballo di coppia. È una cultura, sì. Esatto, è una cultura che adesso la cumbia è il futuro, ma se non vi imparate a ballare qua a Macello, meno male che ci stanno gli immigrati, raga, perché esatto, questi sono punti che fanno, ma sia per portare la cultura, ma sia che nelle serate, se non ci fossero loro, noi non balleremo, cioè qua è inutile. Poi, diciamo che tu fai questa trasmissione anche per il tuo portato esistenziale, lo vuoi raccontare? Tu sei una prima generazione. Sì, io vengo, diciamo, sono prodotto di un papà italiano e di una mamma colombiana. Calegna, saluto la mia famiglia che mi sta ascoltando. E niente, noi ci siamo trasferiti qui una decina d'anni fa, e io ho fatto il liceo qui, ho fatto tutto qui, e quindi insomma sono quella seconda generazione, nel senso vengo da una famiglia di sudamericani, però mi sento romana a tutti gli effetti. Però poi te esce, perché me tu esce, sì. Perché tu poi comunque fai una trasmissione in lingua, esatto. Che insomma non è poco, esatto, che si chiama Il Mono, la scimmia. Quando va in onda? Tutti i mercoledì dalle 6 alle 7 di sera e niente, sì, quello è stato un po' un contenitore, non c'è una linea precisa. Mi piace moltissimo l'elettrocumbia, ma mandiamo un po' di tutto. L'idea è quella di dare degli strumenti agli ascoltatori per conoscere una parte di Sud America che non c'è più, cioè che non c'è più, che non hanno mai conosciuto e che in alcune situazioni si sta anche un po' perdendo, perché ci tengo molto al tradizionale, diciamo al folk. Allo stesso tempo, diciamo che secondo me la cultura musicale latinoamericana ha fornito degli strumenti alle nuove generazioni per ritrovare l'appartenenza identitaria attraverso la musica, cosa che in Italia secondo me noi abbiamo completamente perso. E ti parlavo di questo Facundo Armas, che è stato mio ospite due mercoledì fa, un artista eccezionale. Lui ha 27 anni, Marta, e canta della sua terra con un orgoglio politico, quello che io da antropologa considero l'orgoglio politico, cioè l'identità, l'appartenenza a una terra che è la mia. Sì. E se penso che c'ha 27 anni e noi qui 27 anni ormai di queste cose, però non... gli argentini ce l'hanno tanto, esatto, questa cosa. In Sud America comunque probabilmente la cultura ha fornito più strumenti che sono durati più a lungo che qua. Noi ci siamo un po' persi per strada, non si sa bene a chi l'abbiamo lasciata in eredità la nostra terra. No, infatti, perché poi casomai ci sono delle piccole cioè, diciamo delle piccole parentesi, penso al Salento, quindi comunque esatto, quella è stata una tradizione che poi la pizzica e quel tipo di musica ha conquistato anche gente non salentina, no? Guarda, dicevo, no, esatto. Quindi cioè è un po' altalenante la cosa. È altalenante, eh? Parlavo con Gigi della Chiave, sì, che sono venuti invece ieri. Gli raccontavo, cioè parlavamo proprio di questo tema, e lui mi dice sì, il problema secondo me, lui essendo un italiano che suona in una band come La Chiave, che è multietnica, piena di sudamericani, mi dice il problema è che in Italia ha fatto molta fatica a uscire, cioè nel sud dell'Italia c'è ancora la tradizione per cui un giovane che fa musica, che sia reggae, hip hop eccetera, sicuramente la pizzica la sai, sicuramente ce la infilerà, capito? Però ha fatto fatica a uscire, mentre il Sud America ha una spinta propulsiva incredibile, per quello la cumbia è il futuro, assolutamente. No. No, tra l'altro forse diciamo che la musica sudamericana ha anche il potere di essere formata già da un mischio. Esatto. No, la musica sudamericana è fatta dai tamburi degli africani portati, da un po' dei ritmi degli spagnoli, ma poi anche di tanta musica, suoni, legni, ritmi delle popolazioni autoctone. E forse già questo fa sì che sia una musica così completa che in un modo o nell'altro si tocca. No, con la fatica del caso, per cui può non piacere la salsa, ma probabilmente allora la cumbia ti piglierà un po' di più. Io spesso mando dei gruppi di, non so, la Bersu, il rock popolare argentino, può piacere o non piacere, ma noi non abbiamo niente di simile. Non c'è un gruppo rock che rappresenta così il popolo, no, che tu sei fan de, non lo so, qui chi riempie gli stadi in quel modo, poi sono cantautori che noi riteniamo commerciali, che possono piacere, ma insomma io qua non li passerei perché c'hanno assolutamente d'accordo un sacco di spazio per essere ascoltati. Lì invece il popolo ha una sua, per quanto poi venga maltrattato, ma non è che qua ci maltrattino di meno, ha ancora diciamo una sua dignità del ribellia, no? Quindi che sia attraverso la musica, che sia attraverso poi tanti atti probabilmente spesso più duri quando è il momento poi di fronteggiarsi col potere, un tantino più deflagranti del nostro, ecco. Quindi chissà, anche questo compone anche il fatto che venga così poi ricevuta. E soprattutto io vedo che soprattutto negli ultimi anni c'è un'esplosione di contaminazione della musica tradizionale con l'elettronica, con la folk digitale, elettrocumbia, tecno tambora, delle cose pazzesche, anche con la musica più impensabile, insomma pensavo al Nortec, quindi la musica nortegna insieme alla tecno, a sentirlo sembra un delirio, verrà fuori una cagata. Invece poi insomma in un modo o nell'altro è una cosa. Guarda, in Venezuela è successo questo fenomeno esploso, diciamo, dopo che c'è stata il cambio cioè c'è stata una riforma della Costituzione e delle leggi per la radio e la TV, no? Perché noi prima trasmettevamo solo musica, diciamo, che veniva dagli Stati Uniti, perché come ben sai, no, la storia del Venezuela è inutile che ne parliamo. C'è stata questa grande rivoluzione in cui io lavoravo alla radio, quindi ho vissuto questo cambiamento in cui non dovevi più passare tutta musica che veniva appunto dalle major americane, ma dovevi per forza trasmettere il 40% della musica che trasmettevi in radio, in tutte le radio nazionali, doveva essere fatta in Venezuela, no? Quindi da lì ci è creato, perché prima davvero a noi arrivava della musica in radio e non potevamo scegliere la musica, noi avevamo dei programmi però non potevamo scegliere. Poi la parlavamo musica. Della dittatura di oggi, no? Esatto, no, tanto no, per mettere i puntini poi, su lei. Dopo questa riforma di Chavez, la gente ha iniziato a dire: ah, la libertà di espressione, perché ci stanno mettendo delle regole in radio. Ma come ti stanno mettendo le regole in radio, quando lui in realtà ha detto che per forza ci dovevano essere un tot di programmi prodotti, cioè indipendenti, quindi da gente esterna pure dalla radio. Un'altra che doveva essere il fatto della musica prodotta in Venezuela. E poi ovviamente ha regolato un po' i contenuti, perché ovviamente tu hai un mezzo di comunicazione, non puoi fare soltanto, devi vendere, ok, va bene che hai la pubblicità, ne parlavamo anche prima, sì. fuori onda, però devi avere un minimo di coscienza, no? Per cui, contenuti, esatto. Di contenuto. E lui ha fatto delle regole, una riforma in radio e in TV, e da lì è successo poi tutto il casino, che hanno detto: no, ma è un dittatore, ma come, poi la libertà di espressione ci deve regolare il contenuto. No, è che prima facevate solo Immondizia, esatto. E quindi questo fatto qua ha fatto esplodere quello che noi chiamiamo il neofolklore, che è stato la fusione appunto della musica tradizionale venezuelana, che è il joropo, insieme a delle cose nuove, che ne so, il rock oppure l'elettronica, e sono usciti dei gruppi veramente pazzeschi, che prima veramente erano nascosti ed erano pure denigrati in Venezuela. Quindi vedi, poi ogni stato sudamericano il suo specifico, quindi diciamo, insomma, si potrebbe stare qua a parlare una settimana, no? Sì. Poi tanto più con voi, che avete proprio la cultura tra le mani. Io farei una piccola pausa musicale, yes. E poi vorrei parlare della tua trasmissione, perché appunto ho detto che non si parla solo di cumbia, qui ci sono tante trasmissioni da musica che fai te, quindi sarà tanta gente contenta di ascoltarlo. Mando questo videoclip ufficiale, ne hai nominato Facundo Armas, io credo che... Sì, guarda, e trovi due tracce, una è live che abbiamo registrato in studio, quindi insomma l'abbiamo esportata stamattina velocissimamente. Mando quell'altra, quale preferite? Mandiamo quella live, così almeno... Allora, mandiamo quella live. E il Poncho Fueguino, okay. Quella lì. Eccola qua. Unas nubes grises van cubriendo el cielo, la tarde está triste, ya empezó a nevar, y un vientito helado juega entre las lenguas, mi poncho fueguino su calor me da, mi poncho fueguino su calor me da. Humanos Mercedes me dieron el poncho, fueguino paisaje su trama tejió, el micha y las lengas, calafate y nocro, nieve de la olivia, gris nube otoñal, nieve de la olivia, gris nube otoñal. Un tolguín pujante me da su esperanza, Río Grande y Ushuaia la paz. Ya no habrá distancias si en mi poncho llevo a mi tierra del fuego. ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? Fruto de los calafates, un marrón rojizo que cubre al lengal, un marrón rojizo que cubre al lengal. Sembrador de copas, sembró auroras nuevas, tengo como herencia la huella y canción, la vieja guitarra, recuerdos de amigos, mi poncho fueguino, mi orgullo mejor, mi poncho fueguino, mi orgullo mejor. Un tolgo empujante me da su esperanza, ya no habrá distancias. Si en mi poncho llego a mi tierra del fuego, ¿pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra, ¿pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra, ¿pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra, ¿pa' qué quiero más? Ah, che bello, infatti questa è proprio musica immancabilmente, si sente il Sud America, che scende, esatto. Sente la tradizione, effettivamente è giovane lui, eh? Lui è giovanissimo, poi la cosa più figa è che lui è accompagnato da papà e fratello. Sì. Ah, ecco, infatti tutti. Ho visto le foto, mo che ha detto 27 anni, ho detto, ma là non era quello col pizzetto, quello era il papà. Il padre è anche un ottimo, insomma, violinista, come stavate ascoltando, il padre Pilo, aveva il charanghito, che ce l'ha suonato lì nei nostri studi, sì, e Tadeo ha le percussioni. Che bello, bellissimo, vedi, vedi. Sì. E quindi invece tu fai una trasmissione di musica gotica, mi dicevi, sì. Farai felice il nostro mitico Fagiolino e non solo, c'è tutta una serie di elettro pure, anche lui va dal gothic all'elettronica, all'industrial. Mm-hmm. Bravo. E mio figlio disse, ma che è aga, trasmissione dei colonne sonore dei film dell'orrore. Però anche questo è un genere che non è semplice, e poi devo dire, però va comunque. Quando fai la tua trasmissione, realtà, raccontaci un po'. Sì, diciamo, io ero appassionata da questo tipo di musica già da quando stavo in Venezuela, no? Però ovviamente lì, diciamo che le cose che più si ascoltano, oltre alle cose commerciali ovviamente che ci stanno adesso, che ormai il reggaeton ha ucciso praticamente la cultura della salsa, il merengue in Venezuela, e penso anche in Costa Rica, a Puerto Rico, cioè tutte queste, Repubblica Dominicana, pure lì c'è, cioè il reggaeton un po'. Non perché non apprezzo, perché ci sono alcuni artisti che sono bravi, cioè Tego Calderón, sì. Calle 13, sono anche molto attivi, esatto. Politicamente, socialmente. Però diciamo che almeno non ti danno da gagna, non ti dicono, esatto. Di scodinzolare. Parliamoci tutto. Chiaro, perché qui il problema quello è, a sì. Noi Ermacio ci può pure portare i fiori, i calci in bocca gli diamo, non so, certo. Quindi niente, diciamo che sì, me la cercavo, e poi ogni tanto quando venivo in Europa mi compravo qualche dischi, però lì facevo la DJ, solo che in altri generi, magari un po' più elettronica, un po' più tranquilla, diciamo, perché l'alternativa, la musica alternativa lì è il reggae, lo ska, diciamo, esatto, no? Sì, infatti. E il resto è così, poi sì, c'è chi ancora, ti dicevo, poi in questo periodo qua c'è stata un po' di rivoluzione, si è mosso un po' di cose, però quando stavo io lì eravamo praticamente noi a fare, anche con l'elettronica Maracaibo, uno dei primi a creare questa cultura che comunque era un po' diversa. E sì, diciamo che questo ottobre abbiamo inaugurato una nuova trasmissione a Radio Caos, si chiama Ataúd e Bara in spagnolo, la faccio insieme a un altro mio amico DJ, Tony Dell'Estat, con cui ho iniziato l'anno scorso a fare delle serate insieme, sempre su questo genere di musica qua. E quindi niente, praticamente abbiamo avuto l'opportunità di portarla in radio e abbiamo pensato, perché non? E forse qualcuno mi aveva detto che anche a Onda Rossa c'era una trasmissione simile, ancora non l'ho ascoltata. Sì, diciamo che c'è appunto gothic, ce ne sono forse due, poi c'è Fagiolino, in particolare fa musica dark, e lui è stato sequestrato dallo Stato per Genova per qualche anno, okay. E invece siamo stati molto felici che poi sia potuto tornare, e non solo, sia potuto tornare a trasmettere, perché ecco, per noi quando va in onda questa trasmissione? Va in onda adesso la domenica, prima andava in onda il giovedì, e poi ti do tutti, perché ce ne sono una serie, secondo me dovresti sentire. Perfetto. Però appunto sono contenta, perché poi è una persona estremamente generosa e gli piace sapere che insomma sarà, sì, molto contento. Sì, ma poi è un mondo piccolo alla fine, nel senso, a Roma, che sì, ci saranno 3 o 4 serate, sono solo quelle. Esatto. E poi sì, diciamo che anche lì nelle serate non è che si spazia tantissimo, no? Mettono quasi sempre le stesse canzoni, perché devi riempire la pista, sai com'è, queste cose qua. Invece noi abbiamo voluto fare un programma di, lo chiamiamo, più sonorità scure, per non essere proprio legato a un genere. Certo. Quindi diciamo che passiamo dal rock all'elettronica, ma anche cioè qualsiasi cosa, anche un po' di pop se è scuro, no? Deve essere quello l'ambiente. Per cui tu comunque la trasmissione invece la fai in italiano? La trasmissione la faccio in italiano. Perché tu c'hai una storia di andata e di ritorno, sì, di migranti, no? Sono quindi figlia com'è? Di immigrati italiani in Venezuela, e io avevo il bisogno comunque di vivere anche qua, perché avendo la doppia cittadinanza sentivo il bisogno che, cioè, ti andavo di capire questi italiani, a parte tuo padre e tua madre, chi so che se ne parla, certo, bene, sì, non è la stessa male, cosa poi venire, sono figli, poi però sono stupidi, sono tanto bravi, sì, ma sono delle bestie, non si dice mai una cosa a metà di noi non altri. È la stessa cosa vivere durante le vacanze, venire, certo, qua solo che stare proprio nel paese. Infatti ho imparato tante cose della mia famiglia, anche a capirli, perché non è facile essere straniera nel tuo paese, perché per i venezuelani, anche per il fatto che sono bianca, no? E molti di loro dicono: no, ma no, tu sei italiana, sei, no? Un po' ti vedono, anche ti snobbano da questo punto di vista, perché ovviamente sai la storia del Venezuela, tutta la colonizzazione, e lì i soldi chi ce li hanno quasi, cioè, quasi tutti gli stranieri, no? Però ti dico, nel senso, mio padre è uno che fa motori, quindi non è uno non è un riccone, per cui però devi, cioè, combattere comunque con, esatto, questa cosa qua, che pensano che fai parte di un'elite, che in realtà ti magari senti attaccate addosso delle etichette, sì, che poi vuoi capire da dove vengono, esatto, fuori. Il bello è che qua invece sono venezuelana per gli italiani, no, quindi diciamo che non ho una fai un po' come te pare, sì, una figata, sì, però lo dicevamo l'altra volta, che noi abbiamo questo fatto particolare, no? Io quando parlo spagnolo ho irrimediabilmente un accento italiano, sì, e quando lei parla italiano ha irrimediabilmente un accento spagnolo, però è anche all'inverso. Quindi qui c'è quello di dire: vabbè, ma tu sei colombiana, poi lì ti dicono: no, tu sei proprio italiana. E quindi noi ci troviamo, la nostra generazione si trova un po' a metà. E comunque direi che queste due ragazze che abbiamo qua davanti indirettamente ci stanno dicendo che mischiare premia, esatto, viaggiare premia, sì, attraversare confini e muri, perché poi non è che sfondarli muri, diciamo, esatto, in Latin America ce ne sta uno che gli Stati Uniti prima hanno magnato, poi hanno alzato il muro, e quindi appunto è un arricchimento, questo vogliamo continuare a dirlo, nella misura in cui continueranno a esserci personaggi tristi, ecco, che rifiutano tutto questo. Non apro altre parentesi, sennò poi mi agito. Quindi, insomma, direi che questa radio comunque ha una molteplicità. Mo, pure te in voce, tu che trasmissione fai? Vieni Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Andrea, piacere. Andrea, benvenuto, grazie, anche a te. Grazie mille. Qual è, tu che svolgi, diciamo, all'interno di Radio Chaos? Guarda, ti dirò, dopo la colombiana e la venezuelana, tocca al calabrese. Oh, dai, sudaca. Sud, Marta. Niente, io faccio un programma di musica indipendente. Si chiama Fattore C, va in onda il mercoledì prima di Amparito, dalle 17 alle 18. Tutti i mercoledì. Noi qua tutti i mercoledì. Meglio, perché se era giovedì, oggi era un macello. Sì, quindi no, va bene. Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18. E niente, diamo voce, io e le altre mie due colleghe, Flavia e Sofia, a tutti quegli artisti che escono dallo scantinato e producono il loro primo EP, il loro primo singolo, il loro primo disco, e noi gli diamo voce. Perché lavoro notevole, poi, sì, perché credo che un'altra cosa difficilissima sia appunto riuscire ad affermarsi, a trovare delle piccole opportunità anche per i bravissimi gruppi, anche poi giovani, gruppi pazzeschi. La cosa bella di Radio Chaos è che comunque è una web radio indipendente che spinge la musica indipendente. Da questo punto di vista il filone è unico, cioè ne parlavi prima citando i grandi nomi che vanno nelle radio. Da noi Vasco Rossi e Ligabue non stanno vietati neanche in archivio, ecco, per dirtela tutta, sì, non stanno neanche in archivio e non ci ma staranno infatti mai. No, infatti questa è un'altra cosa che appunto sono delle occasioni da non perdere, credo, perché sembrano piccole cose ad ascoltarle, poi appunto è un discorso che noi per esempio affrontiamo spesso quando si avvicina Renoiz, perché il sogno di Renato ha fatto sì che un sacco di gruppi abbiano la possibilità di andare al Cinodromo e trovare una saletta dove non pagano e quindi poterselo permettere, anche se giovani, studenti, sì, e quindi un po' con le tasche bucate, e questo per esempio, il tuo spazio secondo me è un altro spazio pazzesco, nel senso che poi riuscire a far sentire i propri suoni e piano piano così riuscire a farli crescere, credo che siano cose importantissime proprio per uscire fuori un po' dalla gabbia in cui siamo chiusi, sì, no? Sì, cioè, ci parlano di democrazia, perché la democrazia è l'esempio della libertà, dopodiché, ecco, mi dispiace, ma non ci piace a noi sta democrazia, non mi pare che sia proprio. Però ecco, io credo che imparare da soli poi a crearsi queste piccole nicchie dove invece si fa tanta libertà, si fa la libertà della musica, dell'espressione, del genere, dei testi, appunto io sono sempre contenta poi di ospitare qua appunto esperienze nuove, la vostra, giovani, sì, gruppi, perché credo che siano un po' la linfa vitale dell'umanità romana, ma non solo, perché insomma credo che siano quelli che poi fanno la sostanza, tant'è vero che poi ti ritrovi appunto casomai. Io mi ricordo gli Scazzo, che sono stati ospiti ormai qua, sono di casa. La prima volta che li ho incontrati mi sono stati segnalati, io neanche avevo mai sentito il loro disco, sono arrivati qua come avete visto oggi, ma sempre no, di corsa, la cosa bella. E lì mi trovo una canzone di Genova, su Genova, pazzesca, con un testo che mette i brividi, cioè imparare che comunque appunto noi forse siamo un po', soprattutto diciamo noi che abbiamo la politica dentro, stiamo sempre a fare assemblea, a baccagliare, forse riusciamo un po' a uscire dalla nostra un po' autoreferenzialità del movimento romano che c'ha un po' sto vizio. E invece questo è proprio un insegnamento che fuori da qua, anche se noi non ci siamo, la gente va avanti uguale, ci sono delle menti pensanti, appunto questa cosa della musica indipendente secondo me è pazzesca, perché ce n'è tanto bisogno. Guarda Marta, ti dirò, la nostra pagina Facebook, le nostre email sono piene di ragazzi, ragazze che mandano il loro demo, il loro EP, gente assolutamente sconosciuta ovviamente. Sì, certo. E quello che vogliamo fare noi, tutti quanti noi, è dare voce a questa gente sconosciuta. Poi magari ci sarà il rischio che almeno la metà di quelle persone rimangano sconosciute. Chi non risica, esatto, non rosica. Però voglio dire, perché non dargli voce? E noi gliela diamo. Sì, esatto. E il poco questa... che riusciamo a fare glielo possiamo farlo, insomma, gli diamo voce. Sì. Molto bello questo. Allora io farei un'altra piccola pausa musicale con la Giave, che so che sempre sono stati ospiti ieri. Vai Rachel, annunciala tu. Li annuncio, sì. Questi è una band che io spingo tanto, perché sono anche amici. Diciamo è composta da due ragazzi cileni, di cui uno è il chitarrista cantante Jaime, lui che farà, saluto, ciao, salutiamolo. Lui fa il conservatorio qui a Roma, grande chitarrista. Poi c'è Coco al basso, lui è un cantautore cubano, Iram sale alle percussioni, e ci sono poi due italiani, Gigi e Luca, uno al trombone e Luca alle percussioni. Ma loro vengono pure dal mondo del teatro e del circo, quindi fanno sia circo, perciò loro si chiamano Latin Street Band, no? Esatto, perché fighissimo. Appunto nasce la Giave, nasce per strada. Tra l'altro anche loro sono venuti tante volte alla Snia, sono venuti al Cinodromo, sì. Insomma sicuramente sentendoli avrete avuto modo di ascoltarli. Il primo concerto della Giave è stato 2 anni fa e l'abbiamo organizzato, cioè gliel'ho organizzato io qua in un locale sempre a San Lorenzo, quindi cioè ci tengo davvero tanto, e ieri siamo riusciti a portarli in radio, hanno fatto questo showcase, è stato veramente bello, con anche un ospite in più, c'era un argentino ha un secondo trombone, quindi è stato veramente fantastico. Sì, loro hanno un po' di brani originali che sono scritti dal Coco, da Victor che è il cubano, e se no fanno musica della tradizione della salsa, il son cubano. Quindi noi ora ascolteremo, mi sa, il brano Ave Maria Lola. Un pezzo di storia, diciamo. Hai visto? E quindi questo è stato da noi registrato ieri a Radio Caos. Allora, direttamente da El Mono a Radio Caos, a Radio Onda Rossa, la Giave. Entonces crece, crece, por favor. Cuando que tengo un sentimiento que ya en el hueso me está esperando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, Lola, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco. A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco. Que tengo un sentimiento que ya en el beso me está quemando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, Lola, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Che live, mica con male. La voce di Amparo alla finestra. Beh, sì, sì, anche noi quando poi il fomento che ti raggiunge, quando riesci a portare qualcuno a suonare in studio, non ha uguali. Una grande sudata per i tecnici, però è stato bellissimo. Andrea sì. Ci stava odiando proprio. No, non vi stava. Perché voi avete i tecnici, voi ragazzi, qua facciamo sì. Tutti da soli, quindi io gli dico: calcolate che abbiamo due microfoni, portate quello che vi pare, fateveli basta, anzi vi presto anche il mio. Però arte d'arrangiarsi come regola numero uno, direi, ecco. Ma figurati, noi, cioè, quando è nata la radio, altro che arte d'arrangiarsi, il nostro direttore Antonio Drastico Ricci la faceva dalla sua cameretta con il microfono delle cuffie, quelle di Skype, esatto, che sono incorporate. Quindi, sì, poi sì. Dopo, per il gran casino che facevano, sono stati cacciati via e hanno aperto la sede, quella che era accanto allo Strike, a Pontonaccio. Senti, tu adesso fuori onda mi parlavi di una cosa pazzesca che sì, fate, la radio per i sordi. Due o tre anni fa è nato il progetto Radio Chaos Italis, che è la divisione gemella di Radio Chaos Italy. Italis sarebbe sì, lingua italiana dei segni. Esatto, attenzione. Perché il nostro, in una serata normale, un DJ set normale organizzato da Radio Chaos Italy, Antonio Drastico, il nostro direttore, ha conosciuto un gruppo di ragazzi dei sordi. Appunto sordi, e che segnavano, parlavano, comunicavano fra di loro segnando la LIS. Lui è uscito pazzo, se ne è innamorato, ha detto: no, dai, lo voglio imparare. Lo voglio imparare, è diventato Radio Chaos Italis. Come si svolge? Per te, ti prego, spiegaci. Questi anni, considera, io sono entrato un anno e mezzo fa a Radio Chaos, quindi ti racconto quello che mi è stato raccontato da loro. E niente, praticamente ci sono i sordi che stanno in regia e loro guardano le onde che produce la musica, certo, sul computer, e loro capiscono quando è troppo alta, quando è troppo bassa. Comunicano con lo speaker attraverso i segni per dire fammi entrare, non fammi entrare, levami la voce, certo. E poi c'è qualcuno che segna le canzoni che stanno andando in onda, quindi i testi delle canzoni, quindi i testi fatti con la LIS. Abbiamo lanciato anche una petizione 2 anni fa su change.org perché c'è questa battaglia da anni, sì. Una cosa assurda. L'Italia questa non è fra quei 50 paesi che hanno riconosciuto la lingua dei segni come una lingua ufficiale. E abbiamo lanciato questa petizione, sono state raccolte quasi 100.000 firme, fra cui anche il presidente della Camera, noti, il presidente, certo, del Senato, certo, Boldrini e Grasso. Vabbè, quando poi si ricorre a questi mezzi, sì, basta sono che firmi. Antoni, insieme a questi, ecco, ragazzi, è andato anche al concerto del 1° maggio, è stato sul palco insieme a Daniele Infatti Silvestri. C'era qualcuno che segnava. Esatto, e insomma è stato dato grande risalto a questa cosa. Noi siamo stati i primi, speriamo di non essere gli ultimi a fare una cosa una del genere. Cosa. Speriamo che la LIS venga riconosciuta quanto prima, anche se è difficile, purtroppo. Sì, infatti poi vedo che molte persone si stanno lanciando, anche udenti si stanno lanciando in questa cosa. E credo che sia come imparare un'altra lingua, cioè è una cosa che accoglie e comprende. Sai cos'è? Insomma, la difficoltà è che la LIS deve essere per prima cosa insegnata agli stessi sordi, perché per un genitore, esatto, che si ritrova un figlio sordo è più facile far installare un apparecchietto, certo, che imparare una lingua, estraneo in un corpo, sì, che sì, fai lo so imparare bene una seconda lingua. Quindi invece sarebbe bello che venisse considerata con l'inglese, sì, no? Magari per esempio magari fosse considerata un idioma normale, no? Sarebbe magari molto bello. Poi lo dice a un calabrese che la lingua inglese l'ha fatta come attività scelta, ecco, cioè mentre qua si studia la seconda lingua un altro poco a Roma, io 10 anni fa dovevo lottare per imparare l'inglese, ecco, quindi pensa un po'. Allora, io volevo, per fare un'altra pausetta, volevo mandare un brano che mi è stato chiesto con molta foga durante appunto il DJ set del Anna Tissù, de Anita, e ancora mi sudano le mani a pensarci. E perché me l'ha chiesto un compagno a cui voglio molto bene, a cui sono legata, è un compagno argentino e che quindi insomma mi sembra che oggi ci sia a pennello, e mi dice: c'è, ma devi mandare quella canzone. E io dico: wow, che la conosco, è bellissima. Diciamo che la versione originale è dello Angeles Azul, noi ce la sentiamo in versione ska da Caramello Santo. Ho sbagliato canzone, aspetta. Dai, raccontateci qualcos'altro, intanto io... Va bene, ti dico al volo, siamo 80-90 persone all'interno di Radio Caos, la nostra è un'associazione, siamo tutti soci ordinari praticamente, siamo tantissimi, orari dalle 14 a mezzanotte il palinsesto è pieno, ci stanno programmi da lunedì alla domenica praticamente, sì. Se volete venirci a trovare siamo in via Eugenio Torelli Violier numero 19, in vetrina... 17. Scusate, in vetrina, 19 è quella. Attenzione, sì, quindi aperta al pubblico. Siamo in vetrina, fichissimo. Sì, sì, alla, alla Do the Right Thing. Ti metti fuori, no? Ci stanno le panchine, gli sgabelli, i puff, ti accomodi. E i posageneri, no, e ascolti quello che è dentro, le cazzate che diciamo dentro. Guarda, non me lo dire a me che invece come vedi, però. Va bene, allora io finalmente l'ho trovata, sono così penso tra le trasmissioni un po' più folli di questa radio. Ma è bello, il folle è geniale. Oh, ecco, mi piace. Il folle è geniale. Vediamo se ci riesco, Caramello Santo, come te vuoi alvidar. Thank you. Qui si chiacchiera, si parla di musica, ci perdiamo, perché è così, lo sapete, poi quando si condividono le passioni così si potrebbe andare avanti fino a domani. Intanto io direi che ci abbiamo ancora una decina di minuti in cui mi piacerebbe anche, appunto, che, insomma, poi te l'ho fatto dire in sintesi, direi che come fate voi ad avere un riscontro, oddio, le radio in streaming casomai poi hanno il numero degli ascoltatori, no? Sì. E quindi voi vi rendete conto così dell'ascolto, bene o male, no? Sì. Sì, sì, assolutamente sì. Noi abbiamo vari modi per ascoltarci, perché ovviamente lavorando solo sulle frequenze digitali devi essere più o meno visibile ovunque, lavoriamo molto coi podcast. I podcast su Mixcloud si possono vedere il numero degli ascolti. Poi noi abbiamo delle statistiche degli ascolti tramite il sito, che quelle abbiamo, insomma, delle sono statistiche in tempo reale, perché poi tu mentre esatto, sei in regia scarto puoi di vedere qualcosa. E invece abbiamo anche la webcam e la chat, perché abbiamo la telecamerina puntata e lì invece vedi, lo vede anche il pubblico quanta gente ci ascolta sul momento, ci guarda. Poi per gli ascolti totali abbiamo delle statistiche che escono ogni tanto. È bello questa cosa, tra l'altro, appunto, lo dicevo, che ancora non ci eravamo conosciuti, ci siamo conosciuti così nell'emozione del sottopalco di Anna di Giuve, tra l'altro per una serie di incontri quasi casuali, no? Casualissimi. Perché, è stato molto figo e appunto, capito, io già dicevo di a saperlo, potevamo mandare il segnale, mandavamo pure noi a Nati Chu, insomma io credo che da qui poi nasceranno tante collaborazioni, tante cose. Allora io direi che in chiusura vi chiederei di ripetere intanto l'indirizzo per sentire Radio Caos e delle vostre trasmissioni, e poi insomma ormai lo sapete, qua giovedì ci telefonate, mi venite a fare compagnia, io sono molto contenta. Poi io arrivo a San Lorenzo, quindi figurati. Vedi che la trasmissione sia anche un po' un così, un porto crocevia di mare, un posto dove ci si incontra, questa è una cosa che mi piace molto, che credo che rifletta poi un po' quello che vuole essere l'apertura di questa radio, far sentire, insomma credo che su questo poi ci troviamo, appunto. Assolutamente. Da quello che ci siamo detti. Quindi ripetiamo un po' ripetiamo, i contatti. Ricapitoliamo, intanto ti invitiamo a tua volta, perché grandi, noi tutte le nostre trasmissioni sono in streaming su radiocaositaly.com, Radio Caos, Caos con la K, ci trovate anche su Facebook e siamo live da via Eugenio Torelli Violler 17, che sta qui dietro Largo Beltramelli a Tiburtina, e abbiamo tantissimi programmi diversi, sul sito potete trovarli tutti. Personalmente qui abbiamo El Mono, che fa cultura musicale latinoamericana tutti i mercoledì alle 6 alle 7. Vi imparate anche un po' di spagnolo, eh? Esatto, perché la facciamo tutta in spagnolo. Esatto. Fattore C, che viene nell'ora prima del mercoledì, quindi dalle 5 alle 6, e tratta di giovane cantautorato e giovani prodotti musicali italiani. E poi abbiamo Ataud, che invece è dalle 11 a mezzanotte del mercoledì, e insomma è un contenitore di sonorità oscure, con la nostra amica DJ e Tony dell'Estat. Abbiamo anche un altro programma il venerdì, io ho un altro programma il venerdì ed è in bicicletta, si chiama Rock and Bike. Che non lo dici? Sì, mi sono ricordata ora. Infatti, potresti essere una mia ospite, perché questo programma che fa? È un modo, io sono una che va in bici, è il mio unico modo e mezzo di trasporto. E quindi abbiamo deciso di incoraggiare, io mi faccio anche le critiche al MAS e tutto questo, no? Quindi con le biciclette praticamente che facciamo? Noi invitiamo degli ospiti che devono essere due ospiti diversi, da due mondi diversi, che ne so, abbiamo avuto la cantautrice con il regista oppure il DJ, no? Abbiamo poi l'illustratrice, cose così un po', gente che crea cose. E praticamente che facciamo? Noi li invitiamo in studio, facciamo una piccola intervista e loro mi devono fare una sorta di track list, devono scegliere delle canzoni che secondo loro creano il mood giusto per andare in bicicletta. Noi no, li facciamo effettivamente andare in bici, quindi loro ogni puntata si sceglie una destinazione, un monumento romano dove si deve arrivare, si parte dalla radio, c'è una guida che li accompagna ovviamente, perché per esempio l'ospite che abbiamo venerdì, lei non è mai andata in bicicletta, quindi avrà bisogno. Esatto. E quindi loro devono arrivare, sono in collegamento telefonico con noi, e quindi presentiamo i brani col fiatone, mentre loro stanno in giro per la città, però almeno così con tu il fiatone e con l'immancabile ambulanza di sottofondo, ogni volta che li chiamiamo si sente l'ambulanza, bestemmie, traffico, cose fantastiche. Però è giusto anche un modo, perché sai, a Roma non ci sono le piste ciclabili, quindi almeno tu vedi questa cosa e lo capisci anche dal suono. Loro mi dicono: aspetta che c'è un casino, mi devo fermare, È il nostro modo per sensibilizzare anche rispetto a questo. Questa cosa è molto bella. Tramite pensate che ci sono alcuni compagni delle cicloofficine che infatti per aiutarci, come sapete questa radio poi invece vive un po' faticosamente, ha fatto delle scelte politiche molto chiare, tra cui appunto non ricevere finanziamenti istituzionali né dalla pubblicità, e quindi tra le varie così invenzioni che abbiamo per sostenerci, questi compagni adesso promuoveranno delle riffe o delle aste di biciclette, quindi metteranno a disposizione delle biciclette che nell'iniziativa della radio erano messe o alla riffa o all'asta per finanziarci. Tra l'altro li saluto perché hanno avuto questa idea geniale, per noi sono tutte dimostrazioni d'affetto, capito, perché se la sono inventata proprio per sostenerci, quindi insomma una cosa bellissima. In più appunto si spinge, tante volte qua abbiamo ospitato varie ciclofficine per presentare le critiche al MAS, piuttosto che continuare a parlare di ciclofficina, che è appunto un altro modo per cui tu puoi evitare di dare i soldi a Decathlon per comprarti una bicicletta che pesa 58 kg a basso costo, oppure puoi evitare di rubarla al tuo vicino, perché mi sembra che se ne rubino abbastanza di biciclette. Io sto a due di questa cosa, mi devo portare la bici dentro a casa, e poi i vicini si arrabbiano perché c'è la bici. Dicono esatto, no, tu non puoi portare la bici, a parte ti fanno pagare per mettere la bici nel dentro il tuo cortile, esatto. O se no non te la fanno proprio mettere, la devi mettere fuori. O se no c'è chi si arrabbia perché ti dicono no, perché se tu metti la bici dentro poi puoi macchiare i muri mentre la stai mettendo. Sì, infatti, comunque dobbiamo sensibilizzare le persone a usare, esatto, le invece di bici se ne vedono sempre di più, eroiche. Anche lo skate ormai, anche lo skate long, devo dire che sì, ma del resto insomma basta farsi un giro di 5 minuti in macchina per farsi un esaurimento nervoso. Ho visto un adesivo qua che diceva más bici menos coches, sì, una bici más un coche meno. E questo sarebbe veramente un sogno, perché poi lasciare a casa la macchina è un atto molto rivoluzionario, perché il petrolio, le costruzioni, gli operai, insomma anche lì si potrebbe aprire un mondo. L'ultima volta che ho ospitato dei ciclofficini mi hanno devastato dicendo ma sostanzialmente la radio è fascista, che però è reale, effettivamente se uno pensa a cosa si consuma, come viene prodotta una macchina, appartiene al potere, non a caso siamo tutti schiavi nelle nostre scatole, uno per uno in fila a farci mangiare la testa e il sistema nervoso. Quindi una bellissima trasmissione questa, anche ideata in una maniera geniale direi, perché insomma ha bella fantasia, mettere alla prova. Mi preparo, dai, mi dovrebbe arrivare una bicicletta. Puoi essere la mia ospite quando vuoi. Mamma davvero. Mia, bellissimo. Allora, io non so come ringraziarvi, questa cosa lo so che sarà solo l'inizio di tante altre cose. La voglia. Quindi grazie mille a tutte e tutti voi. Io direi che chiudiamo la schiena del Sol per adesso, non con la sigla, ma vorrei insomma dedicare Latin America con Latin America dei Cagliatrese. Bellissimo. E poi io tornerò in voce giusto il tempo di chiamare, perché oggi c'è stata la sentenza del 15 ottobre, maledetto 15 ottobre, che ha visto alla sbarra parecchi compagni e compagne in una maniera anche abbastanza greve, e quindi diciamo che chiudiamo questa trasmissione, ma tra breve io chiamerò questo avvocato che ci racconterà un po' qual è stata così l'udienza di oggi. E quindi loro sono Cagliatrese, Latin America. Grazie a tutti voi, grazie Radio Causa. Grazie Marta. Puerto Rico nación manta pacha paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos ta kita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uyari kusunchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes...